Mix 24 di Giovanni Minoli. La scuola italiana, tra ponti lunghi, scioperi, tornate elettorali, accorcia di un bel po' il suo calendario. E sono molti presidi a protestare perché, dicono, così non si riesce a portare a termine il lavoro. Fuori dai cancelli, sulle bacheche di Facebook, nei forum dei genitori, da Milano a Napoli, si scatena anche l'ira delle famiglie che non sanno dove lasciare i figli. È l'ora di smetterla di usare sempre le scuole dei più piccoli per le elezioni, dicono. In alcuni casi poi i ballottaggi delle elezioni vanno a scontrarsi con le prove invalsi per gli esami di terza media fissate a livello nazionale per il 17 giugno, ma le scuole che sono sede elettorale saranno costrette a rimandare al 22 giugno. Insomma, tra il ponte del 2 giugno e seggi elettorali, le scuole quest'anno hanno di fatto mandato in vacanza gli studenti già a fine maggio, creando non pochi problemi alle famiglie che si sono trovate a dover organizzare mattine, pomeriggi dei propri figli divisi tra nonni e centri estivi. Una questione di tempo, certo, ma anche di costi per le famiglie che per una settimana di centro estivo si trovano a spendere tra i 70 e i 250 euro, dunque un forte carico anche economico. Ma se questa è la scuola di oggi, con i suoi temi e i suoi problemi, com'era la scuola di ieri? Fino agli inizi del Novecento, la cultura educativa italiana è sostanzialmente simile a quella del resto d'Europa. Sarà il fascismo, e non solo nella scuola, a cambiare tutto. E gli effetti del ventennio e della riforma Gentile, che è del 1923, saranno tanto più evidenti quando quel ventennio finirà tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale. L'attuazione della riforma è prevista in 5 leggi fondamentali da approvare gradualmente. In realtà, però, di queste 5 leggi ne viene promulgata solo una, il 1 luglio 1940. A questo punto, infatti, l'Italia è in guerra. E il destino del paese e delle sue scuole dipende da ben altri fattori. Con la fine della guerra, il tema dell'istruzione è uno di quelli centrali nella nuova Carta Costituzionale. Su questo argomento si crea uno scontro importante tra la Chiesa, che vuole mantenere un rapporto privilegiato con la formazione delle nuove generazioni, e il Partito Comunista, che vuole difendere la scuola pubblica, prolungare l'obbligo scolastico e garantire l'istruzione per tutti. La scuola entra nella Costituzione. La scuola è aperta a tutti, recita l'articolo 34. E poi l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. E del resto, dice l'articolo 30, i genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere, educare ed istruire i figli. La Costituzione della Repubblica Italiana entra in vigore il 1 gennaio 1948. I nuovi programmi scolastici esprimono una carica innovativa e uno spirito democratico che non ha precedenti. Agli alunni viene insegnato, tra l'altro, il superamento del nazionalismo, la fraternità tra gli uomini, l'educazione sociale e il valore dell'autogoverno. La scuola della giovane Repubblica Italiana ha insomma un nuovo obiettivo. Non solo superare l'analfabetismo, ma anche diffondere una nuova cultura di base per tutti. Ma i nuovi programmi suscitano perplessità, se non addirittura aperta ostilità, da parte del mondo cattolico. Nel 1955 la scuola elementare viene dotata di programmi maggiormente ispirati al cattolicesimo. L'educazione religiosa diventa fondamento e coronamento di tutta l'istruzione elementare. Per la maggior parte degli scolari la giornata a scuola inizia e finisce con una preghiera. Alla fine della quinta elementare c'era già una biforcazione. Chi non si era mostrato particolarmente capace, particolarmente meritevole, finiva o direttamente nel mondo del lavoro, significava fare il garzone, andare ad aiutare in un'officina, oppure si finiva in quella specie di inferno che erano le scuole di avviamento al lavoro. Ci vogliono altri 7 anni, fino al 1962, perché il Parlamento vari una nuova riforma strutturale della scuola. La scuola media del dicembre 62 è una delle riforme più importanti della storia scolastica del dopoguerra. Questa riforma fa perno su due cose: innalza l'obbligo scolastico e unifica in un'unica scuola tutte le scuole post-elementari precedenti, col risultato di evitare innanzitutto ai bambini una scelta precoce alla fine della quinta elementare del loro destino scolastico e sociale. Ma a cambiare tutto arrivano di prepotenza l'automobile e il televisore. Loro, più di ogni altra cosa, trasformeranno l'Italia. Quando la RAI inizia le sue trasmissioni, gli abbonati sono solo 88.000. Nel giro di 4 anni saranno più di 1 milione. Come in altri paesi, anche in Italia la televisione è un monopolio di Stato. Offre notiziari, programmi religiosi, varietà, quiz, sport. Diventa in breve uno strumento straordinario per unificare linguisticamente il paese, specie per i ceti meno alfabetizzati. In questi anni la scuola materna vive quasi una vita clandestina, nascosta. Ormai non basta più che l'asilo accudisca i figli di genitori sempre più assorbiti dal lavoro. La scuola materna deve avviare il primo processo di crescita e scolarizzazione del bambino. Nel dicembre 1964 il secondo governo Moro presenta un disegno di legge sull'istituzione delle scuole materne. Ma le posizioni in campo sono talmente contrapposte che lo scontro degenera addirittura in una crisi politica. Il testo, ripresentato nel maggio 1966, verrà approvato solo 2 anni più tardi. E l'educazione dell'infanzia, da marginale che era, diventa d'improvviso centrale nel percorso formativo ed educativo. Tra il 1960 e il 1970, anche il sistema scolastico italiano viene travolto dal cambiamento che trasforma l'intera società. 1967. Don Lorenzo Milani, prete cattolico del dissenso, pubblica Lettera ad una professoressa. Nel libro, gli studenti della scuola di Barbiana di Vicchio del Mugello, vicino Firenze, denunciano i pregiudizi di classe del sistema educativo italiano e l'affermarsi di un individualismo sempre più prepotente. Il mondo cambiava e negli anni 70 il rapporto Ford, in cui per la prima volta viene detto che la scuola non è solo prodotto ma è anche fattore della società, e ci voleva il 68 perché questo fosse capito da tutti. La difficoltà di fare scuola aumentava sempre più. Dopo un secolo e mezzo dall'Unità d'Italia, è ormai definitivamente chiaro che qualunque trasformazione del sistema scolastico è avvenuta dall'interno della scuola, a partire ad esempio dagli insegnanti stessi, che hanno via via modificato i programmi, sperimentato nuovi sistemi e metodologie, andando spesso al di là delle loro mansioni e delle loro responsabilità. Dopo questo lungo percorso di crescita, la scuola italiana è di fronte a nuove decisive sfide. Toccherà a lei, alla scuola, immaginare i percorsi di domani per trovare e concretizzare una nuova identità, un'identità che sia al passo con i tempi, pur mantenendo la sua indispensabile funzione formativa. Le elezioni ci sono già state. Adesso arriveranno i ballottaggi. Ma i voti di chi ha perso, dove finiranno? Beh, la sora Cesira un'idea ce l'ha. Sentiamola. Che batosta elettorale, mo smonto il comitato e via. La sconfitta fa molto male, anzi è tipo un'agonia. Io ci ho sperato a lungo, sai, non ho creduto nei sondaggi mai. E mi vedevo bene a capo della giunta ormai. Girerò per tutti i salotti, l'ideuzza io ce l'ho già. I miei pochi voti son ghiotti, per chi a sto ballottaggio andrà. Te li cedo se li vuoi, fidati che mi ringrazierai. Sono io la svolta della campagna, ti cambio la vita se vuoi, li vendo e tu hai capito già che anche il mio 3% potrà farti volare. Li vendo, ma tu cosa mi dai? Incarico mandato, se non ti fotterai, io li vendo, lo sai, o li scambio se vuoi. Oggi affrontiamo uno dei segreti della nostra storia recente. Vindice Lecis, giornalista, da 35 anni nel gruppo Espresso, scrittore, adesso con L'Infiltrato, pubblicato da Nutrimenti, si occupa della ricostruzione di un caso clamoroso e quasi sconosciuto nell'Italia degli anni di piombo, l'infiltrazione tra i brigatisti di un militante comunista che avrebbe dovuto riferire al comandante dell'antiterrorismo Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il racconto si apre nell'estate del 1978, immediatamente dopo l'omicidio di Aldo Moro, e al casello autostradale di Sette Bagni, a Roma, si incontra il generale Dalla Chiesa, appunto, e il braccio destro di Berlinguer, Ugo Pecchioli, per concordare l'operazione segreta. Ecco, Lecis, è un fatto accertato questo incontro? Sì, l'incontro avvenne, uno dei tanti incontri tra Pecchioli e Dalla Chiesa avvenne effettivamente nel casello di Settebagni, e quella può essere, diciamo così, l'inizio di una collaborazione, ma la collaborazione in realtà era più stretta e mi era iniziata qualche tempo prima. E l'operazione è talmente vera che ne parla un giornalista che si chiama Gianni Cipriani in un libro intervista a Ugo Pecchioli pubblicato pochi anni prima della morte di Pecchioli. Pecchioli fu tentato di inserire questo capitolo, questo argomento nel libro, ma poi fece qualche passo indietro. Lo stesso giornalista Cipriani ne parlò successivamente in un libro sull'intelligence. Praticamente emerge una stretta collaborazione tra i comunisti italiani e il nucleo antiterrorismo della Chiesa, ma comunque con gli apparati dello Stato, che col caso Moro e dopo l'omicidio di Guido Rossa del gennaio del 79 hanno avuto un grande sviluppo. Ma è stato l'omicidio Moro, secondo te, a far scattare la collaborazione tra il PC e l'antiterrorismo? I comunisti avevano sviluppato una sorta di doppio lavoro, il lavoro di massa, quello che si vedeva, manifestazioni, mobilitazioni, diciamo così, convincimento e di lavoro particolare nelle zone d'ombra che c'erano nei luoghi di lavoro, persino di simpatie verso il terrorismo, quindi un lavoro pubblico, un lavoro di impegno deciso con un lavoro più coperto. Non stiamo parlando, come qualche, diciamo così, osservatore commentò allora, di una specie di Gladio Rossa, del tutto sbagliata come affermazione e anche, diciamo così, screditata in sede giudiziaria. Stiamo parlando di un lavoro riservato e coperto dei comunisti nelle grandi città, ma non solo nelle grandi città, nell'individuazione di terroristi, nell'individuazione dei fiancheggiatori, nell'individuazione di zone di contiguità e di complicità verso il terrorismo. Un lavoro coperto che era di fatto l'osservazione, la schedatura, il controllo e anche la collaborazione. Ma quindi tra Moro e Berlinguer il rapporto era già arrivato a questo tipo di collaborazione, ovvero fino a prevedere una sorta di intelligence parallela e coordinata tra governo e opposizione? Guarda, sulla questione del terrorismo io credo di no, perché Moro e Berlinguer stavano lavorando veramente per una questione ben più alta, anche se la lotta al terrorismo era centrale. E aveva già ai tempi dell'omicidio Moro già raggiunto livelli altissimi, omicidio di magistrati, di giornalisti, di poliziotti, eccetera. No, diciamo, quella era la parte alta del governo del paese. Non è un caso che le Brigate Rosse diventano soggetto politico col sequestro Moro, con l'omicidio Moro, quando non solo costringono i comunisti a fare quella scelta, diciamo così, affrettata di sostegno al governo Andreotti, di cui non facevano parte, ma di fatto si mettono come punto centrale, questa è la questione vera, sul quale anche il libro del Ragione è tratta, l'obiettivo delle Brigate Rosse era quello di impedire, forse perché erano eterodirette, l'avvicinamento dei comunisti nell'area di governo. Quindi non è che Moro e Berlinguer parlassero dell'intelligence parallela, questo è un lavoro a parte che i comunisti hanno fatto in tutto il paese e con buoni risultati. Insomma, anche in questo senso l'omicidio di Moro ha segnato l'inizio della fine delle Brigate Rosse. Sì, l'omicidio Moro, diciamo, crea una consapevolezza nel paese della potenza, della violenza e della virulenza del terrorismo di stampo brigatista. Però secondo me la parte più il momento della fine del terrorismo brigatista italiano è l'omicidio di Guido Rossa, l'uccisione di un operaio comunista, sindacalista, delegato della CGIL. Viene visto come un punto di arrivo del degrado delle Brigate Rosse. L'uccisione di un operaio diventa il punto di svolta dal quale le BR non si riprenderanno più. Senti, nel tuo libro tu alterni continuamente fiction e realtà. Da una parte ci sono i documenti storici come i comunicati delle Brigate Rosse, i documenti interni del Partito Comunista, e dall'altra la storia di Antonio Sanna, che è invece un personaggio di fantasia. O c'è qualcosa di reale anche in lui? Ecco, Antonio Sanna, diciamo, è un personaggio di fantasia, ma di Antonio Sanna è pieno, diciamo, i gruppi dirigenti intermedi del Partito Comunista dell'epoca, dirigenti militanti molto rigorosi, molto riservati, molto per bene, che avevano messo alla disposizione della lotta al terrorismo praticamente la loro vita. Più o meno facevano il lavoro che io racconto nel libro, quindi il rapporto con le forze di sicurezza territoriali, la schedatura, l'organizzazione, la conoscenza delle cose. Attenzione, non stiamo parlando di uno stato parallelo, di tutt'altro, stiamo parlando di un partito in quel momento, allora, un partito fortemente radicato, diciamo, al lavoro operaio, al lavoro nelle città, eccetera, anche con un atteggiamento di dedizione assoluta e di disinteresse nella lotta al terrorismo che poteva far pagare dei prezzi altissimi. E infatti l'omicidio di Guido Rossa fu il prezzo più alto pagato dal Partito Comunista. Era, Guido Rossa faceva parte di nessuna rete clandestina. Guido Rossa era uno di quei quadri della sezione problemi dello Stato territoriale, in questo caso di Genova, che vengono, che prestano la loro opera per denunciare le infiltrazioni terroristiche nelle fabbriche. Ma nel tuo libro, L'infiltrato, dove collochi il confine tra la finzione e la verità storica? Il racconto dell'infiltrato è assolutamente, come dire, reale. Tra l'altro ho avuto la possibilità, quando il libro poi è uscito, di parlare con uno degli ufficiali che direttamente fecero l'operazione. Quindi l'operazione non solo è vera, ma ebbe un grandissimo risultato, perché l'infiltrato del Partito Comunista dentro l'IBR a sua volta era già stato infiltrato dentro Autonomia Operaia o dentro un gruppo eversivo minore. Appunto questo infiltrato consente di avviare un'operazione che porterà un po' di anni dopo alla distruzione della colonna romana delle Brigate Rosse. Una piccola cosa sul termine di fatto della collaborazione tra il Partito Comunista e gli apparati dello Stato. Quando il Partito Comunista, e lo racconta Pecchioli in un libro pochi anni prima della sua morte, si rende conto che gran parte delle intelligence, gran parte dei vertici, dei servizi di sicurezza, delle forze armate che hanno seguito il caso Moro erano pesantemente infiltrati dalla P2. Questo è un fatto che creò una situazione anche di imbarazzo di un partito che si era schierato apertamente per la difesa della democrazia, poi lavorava con uno Stato che era pesantemente infiltrato da un'organizzazione di gelli come la P2, che aveva ben altre finalità. Vindice Lecis, L'infiltrato, nutrimenti. Sapore di sale. Buongiorno Ale Cravetto, ma di che mi vuoi parlare? Di sapore di sale, sapore di mare? Sapore di sale, sapore di mare. Allora, sono finite le scuole e iniziano le vacanze, ma per i bambini. Perché per noi è doppio lavoro, ma soprattutto è doppio lavoro per i nonni. Lei ha nipoti che stanno in età scolare? Sì, sarevo io e mia moglie a fare da un po' di staffetta per cercare di tenerli con noi, insomma. Ci costa pure un poco, però fare una cosa per i nipoti è comunque una cosa piacevole. Con i nonni stanno sempre i nipoti, quindi faccio il nonno pieno 7/7. Qualche volta li vado a prendere a scuola, giochiamo, cioè, a volte diciamo, mi fanno vedere qualche cosa sul cellulare. Resteranno con me perché la mamma lavora e quindi io sono l'incaricato. Non mi pesa per niente, mi è sempre piaciuto di farlo, però voglio dire un po' di riposo anche ogni tanto pure io mi spetta, eh. Vabbè Ale, comunque scusa, anche a loro ogni tanto la vacanza aspetta. Oscar ai nonni e poi vacanza anche per però loro. Però hai sentito quello lì che ha detto, a me non mi pesa per niente. Sì, in effetti se non vi pesa, se non continuate vi pesa, così. Va bene, comunque hai ragione, se lo meritano bisogna mandarli in vacanza. Ho trovato un sito che si chiama bimboinviaggio.com. Bimbo in viaggio, Ale, scusa. Perché? Bimbo in viaggio, parliamo di mandare in vacanza i nonni, noi bimbi, mi sa che hai sbagliato. Ma vedi come sei superficiale, perché se tu guardi bene all'interno delle varie sezioni del sito, c'è una sezione dedicata proprio alle vacanze dei nonni, in cui ci sono offerte bellissime in questi family hotel, dove nonni e nipoti possono fare delle vacanze straordinarie in posti meravigliosi a prezzi accessibilissimi. Ecco, allora li mandi in vacanza con i bambini. Sì, ma nonni forever. Nonni forever. Non c'è perché scansa, ma che vacanza è, Ale? No, ma perché io ci ho pensato bene, proprio bene bene. Ma alla fine i nonni in vacanza senza nipoti si annoiano. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ora mi vedi? Ora no. Ora mi vedi? Ora no. Mi hai visto? Ora non mi vedi più. Donatella. Ho capito. No, Donatella, si sente bene? Certo che mi sento bene. Sto facendo le prove di magia. così se divento brava ci riesco, poi ti faccio sparire. Ah, ma grazie, Donatella, grazie. Però io poi ti faccio riapparire dove voglio io. Lo sai, per esempio, dove ti potrei far apparire? No. Che fa veramente schifissimo. Dentro le toilettes di un posto che conosco, dove ci stanno pure i corpi. Senta, Donatella, vogliamo parlare del film di oggi? Oh, senti, martiri crocifizzati. Ma secondo te di cosa stavo parlando io? Di magia così? Non lo so. Stavo già dicendo del film, no? Perché questo film che io ho visto si chiama Now... Aspetta che me lo sono scritto come si dice, esatto. Now You See Me 2. Perché c'è già stato l'uno. Ma va. E parla di questa banda che si chiama I Cavalieri ed è capace di fare delle magie incredibili, tipo che ti fanno sparire le cose che in realtà sono sempre lì, ma tu non le vedi. Sono tipo illusionisti? No. No. Gli illusionisti sono quelli che ti dicono, che ne so, ti amo, e invece hanno le amanti zozzone. Oppure ti dicono torna alle 8 e tu ti illudi che cenate insieme, e invece mangi da sola. Insomma, sono quelli che ti illudono e poi sono stronzi, hai capito? Chiarissimo. La gente vede i cavalieri come dei nobili Robin Hood. Ma io credo che il loro primo atto sia stato solo il preludio a un trucco ancora più grande. Hai capito? Questi cavalieri sono dei maghi fighissimi perché usano la bravura per fare delle opere buone. Mica ti fanno sparire il portafogli sull'autobus. Capito? Ti fanno uscire le pecore dal cappello. Loro hanno... Che hai detto? Niente, le pecore. Loro hanno l'abilità magica. Magica. E questa volta finiscono in un posto tipo Cina, penso, per denunciare un ceffo ricco e corrotto. Però finiscono anche loro in una trappola e ne succedono un po' di tutti i colori. Hai capito? Senta, io a dire la verità non ho capito molto, però ecco. Confido nel suo entusiasmo. Ci vuole parlare del cast? Sì. Ci sono un sacco di attori che ho già visto, tipo c'è quello di Harry Potter. Gli altri, se vuoi, li puoi dire tu, perché tanto ce li hai scritti e te li provarei prima. Io invece ho buttato il foglietto dei nomi insieme al fazzoletto e mi ci sono soffiata il naso. Bene, bene. Allora, vale la pena vedere... Ma non mi fai venire mai di parlare, però. Non mi piace questa cosa. Ma non si arrabbi. Dicevo, vale la pena vedere Now You See Me 2 con Daniel Radcliffe, Woody Harrelson, Mark Ruffalo per la regia di John Chu? Senza aggiungere nient'altro. Senti cosa, non ti va mai bene niente. Se ti dico le cose, non va bene quello. Allora io ti dico il minimo impensabile. Indispensabile. Quindi, zitta. Quindi ti dico che è un film di magia, di ridere, di sparire, di ricomparire, di illusioni, di buoni, di cattivi, di cinesi, di cose che scoppiano. Bene, adesso tutto molto chiaro. Grazie, Donatella. Vuoi che ti faccio la magia che la rubrica la settimana prossima te la fai da sola? Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Allora Pietrangelo, dove andiamo oggi? Oggi andiamo a Costa Azzurra. E oggi Alessandra raccontiamo, aiutandoci con François Hardy, la storia di Albert Spaggiari. Spaggiari, che di nome faceva Albert, Bert per gli amici. Nel 1976 aveva fatto la rapina del secolo svuotando il caveau della Société Générale di Nizza. E lascia un biglietto, senza odio, senza violenza, senza armi. L'avventura è l'avventura, la noia il nostro peggior nemico. E Spaggiari dice, non sono uno scassinatore, sono un avventuriero. Non è la stessa cosa. Fra questi due mestieri c'è la stessa differenza che passa tra fare la hostess e fare lo skipper. E quella della Société fu la sua unica rapina, che però fruttò 30 milioni di euro di oggi e cancellò lo slogan dell'istituto di credito, che così diceva: tutte le banche vi offrono delle cassette di sicurezza, noi vi proponiamo Fort Knox. Non e male. Si è visto. E non male. Le fogne del paradiso è il titolo del libro che Albert consacrerà alla sua impresa. A nemmeno un anno dallo scasso, Albert Spaggiari fugge dal palazzo di giustizia dove lo stanno interrogando. Si butta dalla finestra dall'ufficio del procuratore, rimbalza a terra dal tettuccio di una Renault, monta sulla moto di un complice che lo attende a motore acceso, scompare, saluta con la mano e in seguito manda un biglietto di scuse e un indennizzo in contanti al proprietario della Renault danneggiata. Meraviglioso. Il colpo del secolo al retrogusto di Sberleffo. Un ladro gentiluomo, insomma, Pietrangelo. E per di più politicamente scorretto, fascista. E ci vuole. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Ecco, Albert Pajari muore nel 1989 all'età di 57 anni ed è appena uscita una biografia di Albert Pajari scritta da Giorgio Ballario. È esauriente e descrive alla perfezione la sua vita veramente spericolata. E però Pietrangelo, a questo punto sì, io vorrei sapere qualcosa di più di Pajari. Ma lui è morto libero o è morto in prigione? È morto libero, in fuga. In fuga? In Italia. Protetto dai suoi camerati. Ah, ecco. Comment te dire adieu? In autunno, per l'edizione OAC, uscirà invece Le Fogne del Paradiso. E vorrei ricordare che nella nota introduttiva al volume, Carlos D'Ercole, avvocato, appassionato d'arte, che è autore di una biografia di Enzo Cucchi, e lì spiega del perché si innamorò e cominciò a cercare questo romanzo verità di Albert Pajari e per avere lui una missione, quello di pubblicarlo senza odio, senza violenza, senza armi. E la leggenda continua. E continua François. Eccolo Franky, buongiorno Franco Schipani. Ciao Alessandra Fiori, come va? Questo sound e queste voci ormai fanno parte del nostro immaginario, non ha importanza quanti anni abbiate, da 5 che fai, metti le mani a avanti. 95. Ale, esatto. Hai messo le mani avanti. Chi sono? Sono i Pooh. Ah, vabbè, sono i Pooh, a forza di stare con te Franco imparo anch'io, i Pooh. Sai che loro si sono formati nel tantissimi anni fa, 50 anni fa, esatti, hanno venduto 100 milioni di dischi. E quest'anno hanno detto vabbè, noi ci sciogliamo definitivamente, richiamiamo nell'organico D'Orazio, il batterista, e Riccardo Fogli che se n'è andato tanti anni fa, però finiamo alla grande con i botti, come si dice, facciamo gli stadi. E quindi allo stadio San Siro questa sera, mi raccomando, i Pooh alle ore 21. A te l'onore, Alessandra Fiori. A me? Vai. Ma sono i Duran Duran, Wah Boys. Ah, eri sono una stata fan. Brava. Molto. Io l'ho visto a New York, in un teatro di Broadway, dove loro sono stati un mese, 1500 persone al giorno impazzite. Cioè, invece che fare un grande stadio, il Madison Square Garden, per esempio, ce l'ho, facciamo. Una sera, uscendo con loro dal teatro, c'era una ragazza molto carina con una maglietta che c'era scritto Simone, 18 anni fa, hai fatto l'amore con mia madre. Veramente? Sì. Comunque. Ma dove li vediamo? Dopodomani al Summer Arena, via San Giuseppe di Vittorio 6, a Sago alle 21. E sulle note di Mikis Theodorakis, la colonna sonora di Serpico, dobbiamo introdurre Dino De Laurentiis, uno dei più grandi produttori della storia della cinematografia italiana, che ha avuto un grandissimo successo anche all'estero, chiaramente Hollywood compresa. Pensa che nel 2001 Dino De Laurentiis si è aggiudicato l'Irving Thalberg Award, che è riservato soltanto agli grandi star, i protagonisti assoluti dello star system internazionale, un premio che lo scugnizio di Torre Annunziata si è meritato con capolavori quali Riso Amaro, Le Notti di Cabiri, Alla Strada, e poi box office internazionale di Conan, King Kong, Serpico, I Tre Giorni del Condoro, solo per citarne alcuni. è una favola meravigliosa e questa favola ce la racconta Giovanni Minoli. Restate in ascolto.